cambia atmosfera. Siamo sempre con la stessa gente. La gente che ci ha visto crescere. Gli amici, i fratelli che ci sono sempre. X-Tape. Per il 2011 è il motto di questo tape. A casa. Resto qui con i miei fra. Sempre. Per il 2012. E io. Hey belli, questo è per grandi e pivelli. Adesso Simo su sta traccia fra uno strizza cervelli. L'amico degli spinelli, io mi distingo da quelli che c'hanno i belli capelli o c'hanno la divisa e i capelli. Ragazzi ribelli con scheletri dentro l'armadio. Puoi trovarmi in qualche bar o insieme agli ultras allo stadio. Un palco tutto sudato per le strade disperato. Senza fumo incazzato, su poker star sei scimmiato. Io non sono mai stato schiavo di questo sistema. Parlavi male di me, ora sta voce ti sderena. Mando in cancrena le finte persone, i finti rapper. Tutti duri ma son fragili come dei crackers. Le mie rime partono dal petto e ti arrivano in testa. Faccio un testamento mentre in testa c'è un neurone in festa. Questa è la storia di un ragazzo che nella vita non si è mai fatto cagare il cazzo. Mai. Vengo dal basso per arrivare in alto. Piano piano risalgo e sta scena la ribalto. La birra al doppio malto, su pietre ardenti scalzo. Tra gli ubriachi risalto, se cado mi rialzo. Tanto non mi fotte ciò che dici. Quando e dove vuoi porta pure i tuoi amici. Posso trarre benefici dalle brutte esperienze. Ma anche se tutto cambia, resto lo stesso di sempre. Siete resto qui, resto qui. Dite col me fra, dite sta vita. Sta vita, mica siamo merde. Non ci insegna solo ciò che serve. Sotto le coperte non dormo, sogni tranquilli. Ma io fra smarrona per telefono e mi fa gli squilli. Io non so più che cazzo dirti. Mi sa che io devo tagliarti. Io non ho più niente da offrirti. Faresti meglio allontanarti. Faresti meglio allontanarti, lo dico per te. Son cazzi tuoi se per colpa tua mi va male a me. Questa gente pensa solo a se stessa, forse un po' fessa. Fanno i duri poi davanti, stanno zitti come a messa. Come è messa sta nazione in crisi da quando sono nato. Con la fessa vanno sotto e qualcuno c'è anche annegato. Circondato da bastardi, ma ormai ci sono abituato. Ora penso mille volte prima di essermi fidato. Mio fratello è un drive, con questa base ti fai le seghe con due mani che così non hai goduto mai. Non lo sai, ma dovresti, se ci cerchi poi ci becchi. Quando ci becchiamo poi vediamo chi rimane. Resto qui, coi miei fra, coi miei fra. Come andrà, come andrà, chi lo sa. Scateno l'inferno se prendo in mano sto microfono. Il tuo suono mi dà fastidio più del mio citofono. Ti piovono ste rime con il marchio Simo X. Da pivello il cappellino e la felpetta del Jais. Sono qui a 15 anni, giravo in botta al duplé. Ero sempre più sconvolto, non chiedetemi il perché. Oh yeah, Rimini oppure Ariccione d'estate. Troppi pacchi in discoteca, quindi vacanze pagate. Frate, andiamo a ballare insieme, conviene. Tanto ogni volta ritorniamo con le tasche piene. Non tiene, sta vita non può andare avanti sempre. Ormai sono passati dei tempi, passo ad altra gente. Io odio chi si sente, questi sono i miei pensieri. Se non vi va bene, vi sdraio come a coronavirus. Siate seri, frate, parla come mangi. In questa scena finti duri, in poco tempo ne ho sentiti tanti. Quanti parlano solo perché paga papà. Questo suono spacca tutto come un testo di Kla. Bella fra, vado fuori quando fumo la White Widow. Ti do un voto 5.0 come Desert Eagle. Sempre più piccolo, fai del piccolo, tu non sai quanto ridicolo sei. Senza uno spicciolo dentro sto circolo, ora il tuo titolo è quanto sei gay. Ok, fra, spingiamo sempre più rap. Simo X, Mad Boys, for all of you fans. Resto qui, coi miei fra, coi miei fra. Come andrà, come andrà, chi lo sa, chi lo sa. Resto qui, resto qui, coi miei fra, coi miei fra. Sta vita, sta vita, come andrà, come andrà. Resto qui, RK 2012, Mad Boys, X-Tape.